Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io abitualmente ero a conoscenza del saldo sul loro conto. Per certi versi era come se conoscessi il loro presente. Ma il loro passato, con quelle entrate, quelle uscite, quelle gioie, quei dolori, restava un mistero. Fino al momento in cui loro me lo chiedevano. Mi chiamo Domenico Maccarana, ho 33 anni, vivo a Rovato, in Franciacorta, in provincia di Brescia. Curo la rubrica dei giochi di alcune riviste. La questione è semplice, è che io di fatto non mi sono mai veramente divertito nella mia vita. Cioè, forse è solo una questione terminologica, nel senso, che cosa intendiamo per divertirsi? Non so, si intende ridere? Ridere tanto e forte o a lungo tempo, oppure vuol dire semplicemente stare bene, provare piacere in quello che si fa. Ne parlavamo prima in mensa con Tiziano, Margherita e Stefania anche, perché noi sembra che non pensiamo a... ma anche quando stiamo mangiando in mensa quell'orribile purè che ti si piazza sullo stomaco e si cementifica esattamente lì dove si trova in questo momento, pensiamo alla puntata che è in onda dopo poche ore. E la puntata di oggi riguarda i soldi, riguarda il rapporto che abbiamo con il denaro. E credo si parlasse di quella roba lì, di andare in vacanza e quindi di pagare per il proprio divertimento. E ripeto, è sicuramente una questione terminologica, però avete presente quelli che dico: ah, guarda, ieri mi sono veramente divertito. Cioè, hai riso. Però ridere non vuol dire per forza divertirsi. Sì, vuol dire anche divertirsi, però mica solo. Oppure anche quelli che fanno un lavoro, quelli che fanno dei lavori che si sono scelti, quindi sono fortunati perché fanno magari lavori creativi. Ah, guarda, ieri lavorando è stato veramente magnifico, mi sono divertito. Non lo so, a me non è mai veramente capitato di divertirmi. Tiziano dice che perché è la cosa di chi è troppo cinico, giusto Tizio? Diciamo prima, cioè che non è mai esattamente dentro quello che fa e quindi è sempre un po' lì che dice: vabbè, ma che ridere, non c'è niente da ridere in fondo, in generale non è che ci sia proprio da ridere. Invece quelli che ci stanno dentro, poi magari il giorno dopo: ah, è vero, ieri sera mi sono divertito. Vabbè, che vi siete divertiti oppure no, oggi si parla del rapporto che avete con i soldi e magari anche del rapporto che avete con i soldi quando decidete di divertirvi. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Vi ricordo che c'è anche un profilo Facebook di questo programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui, sul quale potete trovate anche i podcast. No, i podcast non li trovate più lì, giusto Tiziano? I podcast sul profilo Facebook trovate i link del podcast, però li trovate invece ufficialmente alla pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24, oppure abbonandovi gratuitamente ad iTunes. Questo è per chi non può ascoltare in diretta. Giustamente, come dice Tiziano, sono evidentemente d'accordo con Monti che non c'è veramente niente da ridere. Ma però così sembra depressivo, non ho una vita depressa, non è così, al contrario. È solo che proprio quella parola lì, divertirsi, forse secondo me è perché io non ho usato delle droghe nella mia infanzia, secondo me è per quello, o nella mia vita precedente, cioè deve essere quello forse che si associa un pochettino più allo stupefacente. Fabrizio scrive questa frase, che è una frase che molti di noi vorrebbero tatuarsi sul corpo ma nessuno ha il coraggio di viverla esattamente, che è una frase molto famosa di un calciatore inglese degli anni credo 70, grande campione del Manchester United, che diceva: ho speso molti soldi in donne, alcol e macchine sportive, il resto li ho sperperati. Non so se Fabrizio la viva così. Luca invece, Luca è un pittore, nel senso che proprio dipinge quadri. Con il mio primo stipendio, cioè dopo la mia prima mostra personale, ho superato me stesso. Studio nuovo, moto nuova, fucile a gas replica Seconda Guerra Mondiale, stivali e cappello da cowboy, totale 6.000 euro investiti. È un investimento oppure no? Guarda, le chiedo alla Rosciani, Luca, e poi ti so dire. Francesco: avevo un negozio, lavoravo molto, ma il mio pessimo rapporto con i soldi me l'ha fatto chiudere. Se mi chiedevano lo sconto, lo facevo. Se me ne chiedevano due, ne facevo due. In totale ho chiuso in perdita. E poi chiedere di essere pagato è peggio che mendicare, è troppo imbarazzante. Ma guarda, forse no, invece, essere pagato è semplicemente che fai un lavoro e vieni pagato. C'è una frase molto bella dell'ultimo Batman, quello in cui c'era ancora Heath Ledger che faceva Joker, che dice: se sai fare una cosa, non farla mai senza farti pagare. Loredana: proprio stamattina ho discusso con mio marito, se tutti fossero come lui, l'economia sarebbe morta già 43 anni fa, quando è nato lui. 349-238-6666. Si parla di rapporto con il denaro oggi, e di come lo gestite. Ci sono quelli che lo contano tutto quello che gli esce dalle tasche, ci sono quelli che non contano niente, quelli che si trovano alla banca che ogni mese, salve, si ricorda, siamo una banca e di solito lei deve avere più soldi che non meno di quanti ne ha. E poi c'era un'altra citazione, eccola qua. È una citazione di Andy Warhol, che in realtà non è un granché, nel senso che è abbastanza concreta, in cui pare che abbia detto Andy Warhol: i periodi migliori della mia vita sono stati quelli in cui ho avuto solo problemi che potevo risolvere pagando. 349-238-6666. La storia di oggi è la storia di Domenico. Domenico ha lavorato in banca e quindi, a modo suo, di soldi ne sapeva parecchio. Io sapevo che tutti coloro che si fossero presentati al mio sportello, uomini o donne, almeno una volta mi avrebbero chiesto la stampa dei movimenti del loro conto corrente. Dovevo soltanto attendere quel momento, e soprattutto il modo in cui lo facevano, in cui mi avrebbero fatto quella domanda lì. Sì, perché per molti c'era una sorta di pudore a formulare quella richiesta, quasi di imbarazzo, di fronte a una lunga lista, troppo lunga, magari di spese ritenute azzardate, che poi giustificavano ancora prima che il mio indice trasferisse con il tasto invio la schermata alla stampa. Ho lavorato in banca per 10 anni. Ho iniziato perché, finita la ragioneria, il desiderio principale che avevo era entrare nel mondo bancario. Ho finito perché ho ritenuto conclusa, diciamo, l'esperienza. Non mi trovavo più bene. Io ero abitualmente a conoscenza del saldo sul loro conto. Per certi versi era come se conoscessi il loro presente. Ma il loro passato, con quelle entrate, con quelle uscite, con quelle gioie e quei dolori, restava un mistero, fino al momento in cui loro me lo chiedevano. Mostrare il proprio passato è un po' come svelarsi, è come togliersi un vestito. Penso che la difficoltà maggiore per il cliente fosse quella di trovare le parole giuste per chiederlo, perché è facile dire dovrei prelevare, devo versare o devo cambiare un assegno. Ma il modo per chiamare quella lista lì sembrava un dilemma per tutti. E nella mia vita di bancario ho sentito qualsiasi tipo di frase per quella richiesta. Frasi tipo: buongiorno, vorrei una panoramica sul mio conto. Salve, mi servirebbero i risultati degli ultimi 3 mesi. Senta, mi fa una striscia? Buongiorno, dovrebbe farmi i rilievi di questo mese. Oppure mi faccia una mappa, ma anche mi serve il nastro del mio conto. Ancora, vorrei il tagliando dell'ultimo mese. E per finire, mi stamperebbe gli afflussi del mio conto. Qualcuno però, a onore del vero, aveva trovato una dicitura totalmente diversa, che era: mi fa vedere per favore quanto mi ha rubato mia moglie da inizio anno. L'episodio più divertente però ha come protagonista un piccolo impresario edile. Era un uomo di mezza età, basso di statura e rotondetto. Al mio sportello l'avevo visto poche volte, nonostante fosse un cliente di lunga data. Forse per timidezza parlava a voce molto bassa e quasi mai il suo sguardo incrociava il mio. Mi dava comunque l'impressione di essere ben istruito. Si esprimeva in un italiano privo di espressioni dialettali, molto fluido, molto corretto. Quel pomeriggio la mia cassa si mosse con circospezione. Dopo aver versato un assegno, si comportò ancora con maggiore culatezza, voltandosi prima a destra, poi a sinistra e alla fine alle spalle per un paio di volte. Con la mano destra mi fece cenno di avvicinarmi a lui, mentre con la sinistra si aggrappava al bancone, che era troppo alto per la sua statura, e si allungava per venirmi incontro con la testa. Avevo paura che fosse un rapinatore, che avesse brutte intenzioni. Come personaggi ne ho visti molti, ognuno aveva le sue caratteristiche, a seconda dell'età, a seconda del lavoro che faceva. Quindi c'era uno stereotipo per ogni categoria quasi. Poi ce n'era qualcuno più originale della media, del solito, che si faceva distinguere per il suo modo di porsi. Anch'io, ubbidiente, mi protesi verso l'uomo. Dapprima lui portò l'indice della mano libera al naso, invitandomi al silenzio, e poi mi indicò il terminale con lo stesso dito, un po' tozzo. In filiale avevamo subito soltanto qualche giorno prima una rapina e io, ancora un po' scioccato, temevo il peggio. Ma quel signore aveva l'aria di un bonaccione dai modi gentili, per quanto inconsueti, e soprattutto non aveva il volto coperto da un passamontagna. Mi fissò per la prima volta e, quasi sibilando, ordinò: per piacere, mi faccia un esploso della mia situazione. Mr. Bossman, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. And I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. me i bancari piacciono. Non so perché, mi danno sicurezza. Non chiedetemi il perché. Però quando entro in una banca o quando incontro una persona e scopro che lavora in una banca, io mi sento un po' al sicuro. È chiaramente una sensazione fallace. È pur sempre qualcosa, però. Ho la sensazione che loro sappiano delle cose di me che io non so. Che mi possano dare il consiglio giusto. Che proprio perché loro conoscono l'esatto ammontare dei soldi che ho in banca, sono in grado di starmi vicino. Ripeto, so che è una stupidaggine e se la raccontassi a Barisoni mi prenderebbe a schiaffi da qui fino alla sua redazione, però ho quella sensazione lì. Credo che arrivi dal mio rapporto con il denaro questa storia. Quella del rapporto con i soldi è una componente della vita di ognuno di noi che secondo me racconta di noi molto di più di quanto immaginiamo. Perché abitualmente l'opinione comune divide le persone in due semplici e stupide categorie: i tirchi e gli spendaccioni. Quelli con il braccino corto e quelli con le mani bucate. E da lì poi ne discendono due tipologie di persone che sono chiaramente troppo caricaturali per essere reali. Accade soprattutto nelle famiglie, di solito. A casa mia, ad esempio, mia sorella era quella che buttava via i soldi, mentre io ero quello oculato. Non è così, e così non è mai stato. Direi che sicuramente apparteniamo a due categorie diverse, ma non a quelle due lì. Ci sono quelli che sono molto attenti al denaro, ad esempio, che segnano tutto, che tengono il conto di ogni centesimo che gli esce dalle tasche. Sono quelli con la mania del controllo, quelli che, così come contano i soldi, contano anche i minuti che gli mancano al lavoro, ad esempio, o le flessioni che fanno in palestra. Ci sono quelli che spendono solo per le cose utili, che non si concedono niente e pensano che le frivolezze non servano a rendere la vita più semplice, ma a complicarla. Ci sono quelli distratti, che se non hanno lo stipendio fisso non hanno idea di quanti soldi gli entrino in tasca, di quanti ne siano usciti, e ogni tanto ricevono una telefonata dalla banca per segnalargli che sono in rosso. Ci sono quelli che pensano che il denaro sia una divinità e quelli che invece hanno il talento di farlo, il denaro. Quelli che qualsiasi cosa facciano la fanno in modo che gli entri qualcosa in tasca. Sono quelli che da bambini si fanno dare un euro in più per comprare il ghiacciolo per tutti, ad esempio. O quelli che si fanno pagare per fare copiare il compito in classe e magari restituiscono i soldi se il compito va male. Questi sono quelli che di solito da grandi fanno impresa. Io ancora devo capire a che categoria appartengo. A volte sono molto attento, a volte invece mi faccio fregare i soldi. Come quella volta in cui ho risposto ad una mail. Sapete quelle mail che vi arrivano a casa? E che sembrava una mail della mia banca, però non era la mia banca. Ho compilato con i dati del mio conto, ho messo la password e in meno di 24 ore mi hanno rubato 2.000 euro. Ho scoperto che quella cosa si chiama phishing, che succede agli storditi e che non mi succederà più. Non so ancora che rapporto ho con i soldi, so però che quando lo capirò, capirò anche meglio qualcosa di chi sono io. I soldi di solito non sono un problema quando ci sono, è quando non ci sono che lo sono. I soldi la vita te la cambiano, e come, nel bene e nel male, anche se questo cambiamento non è sempre lineare come sembra. Perché è vero come dice Domenico nel suo racconto che i soldi che abbiamo sono il nostro presente, ma è anche vero che quelli che abbiamo speso non sono il nostro passato, però hanno contribuito a formarlo, quel presente lì. Mentre quelli che avremo ci fanno fare oggi i progetti che realizzeremo. I soldi non sono il nostro presente, sono solo il modo che abbiamo di misurarne una parte. Solo una parte. Comunque non ho detto che non mi sono mai divertito, o meglio l'ho detto, ma non intendevo esattamente quella cosa lì. Intendo dire che probabilmente c'è una differenza tra, nella mia testa, tra lo stare bene e il divertirsi, e forse è sostanziale. Barbara scrive: una volta mi divertivo. Credo sia legato all'età. E poi ancora qualcuno mi scrive: mi sono incuriosita, qual è il significato che dà il dizionario di divertire? Guarda, l'abbiamo trovato, eh? Allora, divertire dal latino significa allontanare la mente da... Aspetta un secondo che sposto il microfono. Da preoccupazioni e pensieri con attività e occupazioni piacevoli. Procurare svago, ricreare. Ad esempio è un gioco che diverte grandi e piccini. Poi però c'è una definizione molto interessante che aveva dato Don Milani. Don Milani nel 65 poi è stato quello che ha scritto lettera a una professoressa. Che dice così: divertire è una parola latina, vuol dire scantonare, prendere una strada laterale, voltare da una parte, uscire un po' dalla strada di tutti i giorni. Il divertimento serve soltanto a quelli che non riescono a riempire decentemente le 24 ore della giornata. Bello duro, Don Milani, eh? Era il 1965. Parroco di Barbiana, vabbè, insomma, Don Milani più o meno sappiamo chi è. Torniamo invece alla questione dei soldi, perché qualcuno mi scrive: i soldi sono energia, sono l'energia che fa succedere le cose. Con questa frase un ottimo psicologo ha sbloccato il mio pessimo rapporto con il denaro. Prima avrei fatto tutto gratis. Barbara scrive: nella vita ho guadagnato tanto e ho speso tutto, il denaro è un mezzo per... E poi, boh, sto messaggio non lo capisco. Vabbè, lo decifro più tardi. Invece andiamo direttamente da Domenico, che è di Brescia e che un rapporto col denaro ce l'ha avuto per forza. Pronto, Domenico? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi? Dove ti trovi adesso, Domenico? Io in questo momento sono a casa. Senti, tu hai smesso di fare il bancario, giusto? Io ho smesso di fare il bancario, esatto. Quando hai smesso? Ho smesso a fine aprile del 2009. E che cosa fai adesso? Attualmente faccio, tra virgolette, l'artista, cioè collaboro con alcune riviste, scrivo tutto ciò che concerne la scrittura. Ma sono umorista, collaboro con alcuni comici. Ma nel senso che sei un autore? Sono un autore, sì. Ma esatto. E puoi dirci qualche comico per cui lavori? No. Sono comici emergenti, okay. Comici che fanno la trafila per entrare in certi contesti, diciamo. In certi giri, insomma. Esatto. Quindi sei uno che fa ridere, cioè sei uno che fa divertire. Diciamo che so scrivere cose che fanno divertire, però diciamo sono uno che, tra virgolette, è più portato a stare dietro le quinte che sul palco. Beh, cioè, quindi ad esempio tu oggi hai scritto una battuta? Oggi, proprio oggi no. Oggi, no. Ieri hai scritto una battuta, sì. Cioè nel senso che scrivi le battute o scrivi, non lo so, come si scrive la roba comica? Sono un battutista, sì. Ah, proprio battutista? Dai, dimmi una battuta, Domenico, per piacere. Così sui due piedi non mi viene. No, anche seduto, guarda, se puoi. Questa era una battuta? Oh, questa vale come battuta? Sì. Vabbè, ti ho fatto ridere, sono divertente allora un po'. Certo, certo. Vedi, basta poco, basta la spalla giusta e le battute vengono. Senti, quindi quando dicevi che scrivi rubriche, giochi e riviste, ha a che fare con questa cosa qua? No, i giochi invece sono qualcosa di diverso, sono giochi di tipo enigmistico, giochi quiz che invento io, ecco. Cioè, quindi insomma, cerchi di sbarcare il lunario in vari modi, non solo attraverso un unico lavoro. Sì. Diciamo che questo filone creativo non mi dà da mangiare, per cui ho fatto, farò e dovrò fare altro. Ecco. Senti, tu hai famiglia, Domenico? No. Però hai dei genitori, perché vorrei capire, certo, i tuoi genitori, certo, che ti hanno visto passare dal lavoro per eccellenza, cioè dal lavoro in banca, a scrivere battute. Come l'hanno presa? Diciamo che... Non è stato facile. Beh, questo lo immagino, però... Diciamo che io sono alzato la mattina dicendo che non volevo più andare a lavorare in banca. È stata una cosa graduale, sì. E anche loro hanno visto che negli ultimi periodi non mi trovavo bene. Pativi. Esatto. Pativi la banca, ok. Esattamente. Però quando gliel'hai proprio comunicato, loro cosa? Hanno allargato le mani, hanno detto: se sei contento tu... Hanno allargato le mani, penso per strozzarmi, ma poi diciamo hanno aggiunto la frase che hai detto tu, dicendo: se sei felice tu, sono contento. Senti, che rapporto hai col denaro a questo punto? Visto che immagino che lentamente si sia abbassato. No? Il livello di denaro che affluisce nelle tue tasche. Allora, sì, decisamente. Quando avevo una buona quantità di denaro, il mio rapporto con il denaro... di fatto esisteva, ma io non me ne accorgevo, cioè... Ti è suonato un orologio a cucù? Esatto, bravo. Cos'è? Esatto. Ma chi sei, Domenico? Ma scusa un secondo, allora facevi il bancario, adesso fai il battutista. I tuoi genitori sono disperati, c'hai un orologio a cucù che suona tra l'altro sbagliato, perché non sono ancora le 4:30. Sì, ma attenzione, io chiamo dalla provincia di Brescia e qui sono già le 4:30. Ah, ok. Senti, insomma, comunque prima di fatto non ce l'avevi, adesso, perché poi devo salutarti, Domenico, e invece sì, adesso semplicemente lo conti, giusto? Cioè, io facevo il bancario e immerso nel denaro. Mm. E invece adesso semplicemente sei emerso e ti guardi in giro quello che rimane. Domenico, devo salutarti perché a proposito di denaro c'è la borsa. Però mi fai un piacere, mi scrivi su Facebook o a voi siete qui, @radio24.it, una tua battuta, l'ultima che hai scritto. Ok? D'accordo, va bene. Domenico, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. È stato un piacere. Anche per me, guarda, anche ciao, per me. Ciao, grazie. Ciao. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Oh, $20. Ma io volevo una nocciolina. $20 possono comprare molte noccioline. Spiega come. I soldi possono essere dati in cambio di beni e servizi. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Domenico ha un'aria veramente divertita e anche divertente. A parte che la foto è segata a metà malamente, perché evidentemente non voleva farci vedere la persona che aveva di fianco, è sulla soglia di una porta che dà su un giardino, perché davanti a lui ci sono dei rami di ulivo. È sicuramente primavera, è probabilmente ad una festa di nozze, perché sparsi in giro si vedono fiori e fiocchetti bianchi. Lui è un abito elegante, con una cravatta rossa, e devo dire, Domenico, hai un po' la faccia da bancario. Io mi sono mangiato una caterva di soldi in borsa, mi scrivono. Conosco entrate e uscite delle mie finanze al centesimo. Registro qualsiasi movimento, anche i caffè alla macchinetta. Mi piace spendere, voglio però essere consapevole di come succede. Alberto da Torino. Ho conosciuto un uomo che aveva solo i suoi vestiti e io mi preoccupavo per una macchina nuova. Lui però era felice. Samuel. Bah, sì, guarda, questo io non lo so mai quanto è vera la questione per cui chi non ha niente è più felice di chi ha qualcosa. Alla fine, secondo me, chi non ha niente si preoccupa magari di trovare da mangiare e magari invece un altro si preoccupa per, appunto, per la macchina che deve comprare. Sto andando a lavorare adesso, faccio un lavoro privilegiato. Emanuele da Bologna. Guadagno molti soldi, ho un contratto a tempo indeterminato. Quello che ho capito però, per certo, è che però il denaro non fa la felicità. Ho poco tempo per vedere amici e affetti. Mi piacerebbe fare il fotografo, ma non ho il coraggio per lanciarmi in questo momento di incertezze assolute nel mondo del lavoro indipendente, anche se sono piuttosto convinto di avere talento per farlo. Emanuele da Bologna. Emanuele, direi che però ti sei chiarito esattamente la tua situazione. Pensa, non ci devi neanche €80 per un'ora dello psicologo, 10 centesimi di un SMS, te lo rileggi e magari capisci sicuramente meglio di me quello che vuoi fare. E parlando di soldi, a me viene sempre in mente le figure di grandi rapinatori, ma in particolar modo questo rapinatore milanese che si chiama Luciano Lutring, probabilmente qualcuno di voi conosce, è un ex bandito, adesso fa lo scrittore e il pittore. Sapete, lui lo chiamavano il solista del mitra o il violinista, perché aveva, a parte che aveva questa passione per il violino che gli avevano tramandato i suoi, ma perché teneva la mitraglietta o il fucile o quello che era in questa custodia di un violino. E lui in una dichiarazione ha raccontato come ha cominciato a fare questo mestiere, di fatto come gli è venuta. Lui dice: un giorno mia zia mi chiese di andare a pagare una bolletta alle poste. Io ci andai. L'impiegato era lento. Io detti un pugno sul bancone. Nel movimento si vide la finta pistola. Lui teneva una finta pistola che aveva comprato in tasca. Si vede questa finta pistola che portavo sotto la cintura. L'impiegato credette che fosse una rapina e mi consegnò i soldi. Io pensai: è così facile? E me ne andai col bottino. Ecco, questo è l'inizio, diciamo, dell'attività, chiaramente illegale, di Luciano Lutring, che ha una storia comunque interessante. Lui ha dichiarato che in oltre 100 rapine fra Italia e Francia ha messo da parte un bottino di 30 miliardi di lire dell'epoca, che poi adesso immagino non abbia più, perché evidentemente nel momento in cui vieni catturato credo che i soldi ti vengano confiscati, ma tant'è, a quello penserà la legge. 349-238-6666. Voglio leggervi invece un pezzo di un libro che si chiama La tua vita in 30 comode rate, che è un libro che ha scritto un giornalista e scrittore giovane torinese molto bravo, si chiama Gianluigi Recuperati, che parla del credito in Italia e del debito, parla di quanto, nonostante si abbassi il livello di soldi che ci entrano in tasca, le persone continuino a chiedere soldi a qualcuno. Passiamo il tempo a dissuadere, ma tanto loro resistono e vanno in cerca di un'altra finanziaria che il prestito glielo fa. È come fermare un fiume con una mano. Il fatto è che c'è un credito buono, che è quello per lo sviluppo, l'imprenditoria, il viaggio, e invece c'è un altro credito, è un credito cattivo, che sono tutte le cose troppo effimere. Ci sono quelli che si fanno prestare i soldi per i matrimoni o per la vacanza, che è effettivamente un settore in boom. Perché tu dici, no? Arriva ad agosto e non riesco a fare le vacanze. Ecco, queste sono le tipiche motivazioni per il prestito personale. Anche qui, in questa filiale, c'è una banda di sfigati che vogliono spendere 30.000 euro in un giorno per sposare una figlia. Se bastano 30.000 euro. Poi sai, anche se non gli dai i soldi, lì è una questione di moltiplicazioni delle fonti di indebitamento. Non è che in sé ci sia qualcosa di sbagliato, a mio parere, nel chiedere soldi. Può anche avere la sua logica. Cioè, se tu sei una persona che ama viaggiare e decide di ammortizzare il costo da una vacanza all'altra pur di fare il viaggio che ti sei sognato, io come faccio a dire che è una cosa cattiva? Certo è che se fai prima il viaggio, poi compri la macchina, poi l'auto, poi la figlia. Sai qual è il problema? È l'abitudine al tenore di vita. Perché quando ti abitui a certi tenori di vita elevati, tornare indietro è difficile. È una questione di identità personale, perché se uno è sfigato e buonanotte. Ma quando uno è diventato rispettabile, con un certo tenore di vita, lì si scende. E scendere diventa una sconfitta. E brucia. Ecco, lì sono le poche volte che ho visto veramente la vergogna. È stato quando un mio cliente mi ha dovuto confessare di non essere più ricco. Facile andare quando non sai guidare, no, no, no, no. Di come triste è Natale senza mio padre, no, no, no, no, no, no. Qualche dettaglio di più su Luciano Lutring. In Francia pubblica un libro che si chiama Lo Zingaro e nel 66 viene fatto un film con la regia di Lizzani che si chiama Svegliati e uccidi, interpretato da Robert Hoffman e Jean-Marie Volonté. Più tardi viene graziato dal presidente della Repubblica francese Pompidou, torna in Italia e nel 77 viene graziato anche da Giovanni Leone. 349-238-6666. Non so chi sia, ma mi scrive: mi si è presentata l'occasione di realizzare il sogno della mia vita, vendere torte e biscotti fatti in casa, ma i soldi mancano, però siccome non sono una calcolatrice forse mi butto e chissà, forse questa volta li faccio. L'ultimo messaggio che voglio leggervi però dice così: un giorno ho bruciato 50 euro, ho dato fuoco a 50 euro davanti a mio padre, petacchino fuori classe, credo voglia dire tirchio, solo per farlo soffrire, e comunque erano soldi miei. La soddisfazione è stata ben superiore ai 50 euro, diciamo che avrei pagato 100 per quella soddisfazione. Simone, credo che qui, più che col rapporto col denaro, dica qualcosa del tuo rapporto con tuo padre. Ringrazio però te, ringrazio Stefano D'Andrea, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e anche Stefania, di cui non ricordo il cognome, ma chi se ne frega, lo saprò più tardi. La storia di oggi era la storia di Domenico e parlava di denaro, quella di domani invece è la storia di Davide e parla di piccoli segreti mai confessati. Quella casa l'aveva costruita mio nonno, con le sue mani. E della sua vigna, con orgoglio, ne ricavava del vino, il suo vino. Io adesso, se dovessi spiegarvi come fosse quel vino, non saprei cosa dire. Forse oggi non riuscirei neanche a berlo. I gusti cambiano e una volta provato il meglio è difficile tornare indietro. Però, malgrado tutto, quello era il suo vino, che maturava nelle botti, dentro a una cantinetta a cui si accedeva salendo due gradini, che io trovavo enormi.